Hai caricato i panni? Le scarpe sono già a bordo? L'acqua? Dai, sbrighiamoci, andiamo, l'acqua poi carichiamo. L'importante è una bottiglia da portare agli amici. Per strada ora siamo e al pensiero impazziamo, al raduno dove ci sarai tu. E siamo uguali in questa realtà. Sì, carta camper fuori città. Siamo per strada adesso, il panorama è intenso, ma la mente già là in piattola. Accendiamoci lì e sentiamoci già qui. Un amico fa la strada con noi. Eccoci arrivati, siamo qua. La magia si accende, sono là. Un amico saluta ed un altro t'aiuta. Tanto Ivano poi non ci sta. E siamo uguali in questa realtà. Sì, tarta camper fuori città. E gente, è già domenica pomeriggio, dobbiamo andare. No, non fate così. Sono sicuro che ci rivedremo. Quando? Tutti i giorni, nei nostri pensieri. E siamo uguali in questa realtà. Sì, tanta camper fuori città. E siamo uguali in questa realtà. Sì, tanta camper fuori città.